Italia in controluce. È tutta la città che si prende cura degli scrittori. È bello questo, diciamo, nel senso che poi magari giri e li vedi mangiare al ristorante, oppure puoi fare anche due chiacchiere, sono di solito sempre molto disponibili, per cui una situazione quasi familiare, direi. Un'intera città dunque che si prende cura degli scrittori, ma anche di chi gli scrittori li ama, i lettori dunque. Stiamo parlando di Mantova, questa città che per 5 giorni all'anno, ogni anno, davvero si trasforma in qualcosa di magico. Si parla di libri, ma non solo nelle piazze di Mantova, in questi giorni al Festival Letteratura, dove anche quest'anno si sta registrando un'affluenza record e grande interesse di pubblico. Davvero un bel segnale, pensiamo, no? Per l'Italia, la gente vuole ascoltare, vuole capire, vuole conoscere, vuole sapere insomma cosa succede, e ama anche parlarne con i suoi scrittori preferiti. È questo che accade a Mantova, o almeno è quello che pensiamo, perché adesso noi ci trasferiamo proprio a Mantova con la nostra inviata Alessandra Tedesco. Buongiorno Alessandra. Buongiorno a te Pieri e a tutti gli ascoltatori. Ho detto giusto? Hai detto perfettamente, guarda Piera, ogni anno si replica, si riproduce questa magia al Festival di Mantova, che è il primo festival italiano, sicuramente il più importante, ma ci sono anche tantissimi altri festival in Italia dove si ritrova questa magia. Insomma, il bello dei festival è che si passeggia per queste città che sono cittadine di piccole dimensioni, si incontrano gli scrittori, magari in un bar, come diceva quella lettrice che avete prima ascoltato, ci si siede, si fa due chiacchiere e poi si va agli incontri non solo di scrittori famosi, di VIP, ma anche di scrittori magari poco conosciuti. E il compito dei comitati organizzatori dei festival è proprio questo, cioè fare delle proposte ai lettori, far conoscere ai lettori dei nuovi scrittori che possono interessare, soprattutto proporre dei temi interessanti. Ecco Alessandra, ma quello che volevo capire, perché io a Mantova non ci sono stata mai al Festival Letteratura, ahimè, e anche insomma negli altri festival, quello che si intuisce è che c'è un po', non so, la caccia all'autografo, un po' la caccia al, non so, al VIP, oppure in effetti la gente non è tanto interessata a queste cose? No, ci sono sicuramente entrambe le cose. Ieri per esempio con Roberto Saviano c'è stata naturalmente la caccia all'autografo, c'erano più di 1000 persone al suo incontro e poi la gente faceva la coda per avere il libro autografato, ma non è solo questo. Poi magari quindi c'è un po' di divismo, insomma, sì, no? Come la Festival del Cinema di Venezia. Beh, insomma, come dappertutto, insomma, viva Dio, anche gli scrittori possono essere dei divi, ma ripeto, la cosa bella è che si va a incontrare anche lo scrittore africano assolutamente sconosciuto e magari si iniziano ad apprezzare i suoi libri. Eh sì, assolutamente. Allora, dacci qualche dato di questa Festival Mania. Allora, Festival Mania, qualche anno fa, diciamo, alcuni ricercatori di un'università milanese si sono presi la briga di fare un calcolo e hanno scoperto che in tutta Italia ci sono ogni anno 1200 festival, ovviamente non sono letterari, possono essere anche scientifici, della matematica, sulla filosofia, eccetera. Un numero ovviamente esageratissimo, diciamo che a causa della crisi negli ultimi 4-5 anni qualcuno di questo purtroppo è stato chiuso, però insomma siamo sempre su un migliaio di festival. C'è stata anche negli ultimi tempi una polemica sui giornali, ci sono troppi festival letterari? Alcuni dicono di sì, personalmente penso di no, nel senso che comunque ogni piccola realtà può avere il suo festival e se il festival è fatto bene, perché no, insomma. Alessandra, scusami, parlavi di crisi, dicevamo che qualche festival è saltato per mancanza di soldi, perché ovviamente insomma ci sono dei costi comunque per mettere in piedi tutta la macchina organizzativa, però mi sembra di aver capito che la crisi va invece di pari passo a un aumento dell'interesse del pubblico per questo genere di iniziative, per capire che cosa sta succedendo in una realtà che sì, si fa sempre forse più complicata. È esattamente questo, come avviene per esempio al Salone del Libro di Torino, avviene al Festival Letteratura di Mantova, a Sarzana, al Festival di Cremona, insomma la gente ha bisogno di capire maggiormente la realtà, quindi va ai festival per sentire dalla viva voce di persone più esperte naturalmente, per cercare di capire la realtà, per cercare di interpretare i problemi dell'economia, della vita quotidiana, ma anche i grandi problemi per esempio della politica internazionale, come in questo momento la Siria, la primavera araba e così via. Perché ai festival c'è una dimensione più familiare, si parla, si chiacchiera, non si riceve, come dire, una lezione dall'alto, ma è una lezione democratica e la gente riesce a capire veramente qualcosa in più. Chi ci proponi che ci spiega questa cosa? Allora, io vi ho intervistato Luca Nicolini, che è uno degli organizzatori storici del Festival di Mantova, nonché anche libraio da tantissimi anni, che ci spiega perché tanta gente è disposta anche a pagare un piccolo biglietto, perché qui a Mantova la maggior parte degli incontri è a pagamento, pur di assistere a questi incontri. Sentiamolo. Credo che le motivazioni siano che le persone hanno sempre più bisogno di approfondire i temi che sono sul tappeto e che sono nella vita di tutti, quindi per quanto riguarda il nostro paese, il mondo, il tema del lavoro, il tema dei propri figli, dei giovani, il tema dei beni comuni, dell'ambiente, e per quanto riguarda il mondo che ci circonda e lo scenario internazionale, i focolai molto pericolosi che ci sono adesso in Medio Oriente, la Siria, il Nord Africa con l'Egitto, l'Africa stessa. Ecco, io credo che ci sia la necessità di scavare e di capire qualcosa in più di quello che sta succedendo in queste situazioni veramente molto complesse. Ma i festival letterari fanno poi effettivamente aumentare la lettura, la vendita di libri? Questo è un dibattito molto aperto, perché nel nostro paese ci sono pochi e forti lettori. Allargare la base di lettori è un compito molto arduo, io faccio il libraio da 35 anni e so quanto sia difficile. Credo che però bisognerebbe ragionare anche all'inverso e pensare cosa potrebbe essere il nostro paese se non ci fosse stata questa fioritura di manifestazioni letterarie. Cioè, in una situazione già così complicata, il non avere anche questi appuntamenti, questi focus, questa capacità anche di attrazione, cosa avrebbe fatto diventare il nostro paese? Ecco, quindi credo che l'importanza di queste manifestazioni sia grande. Qual è, insomma, l'identikit del frequentatore tipo del Festival di Mantova? Ma è di due tipi sostanzialmente: il forte lettore, il grande appassionato che ha voglia di uscire dalla lettura, dal momento di lettura, che è un momento per definizione individuale, solitario, per confrontarsi anche con gli altri, e il curioso, magari debole lettore o forse non lettore, che invece trova meno faticoso avvicinarsi a questo mondo attraverso queste manifestazioni, e noi speriamo sempre che qualcuno poi rimanga impigliato nella rete. Quindi credo che queste siano le due tipologie principali di spettatori del festival. Dunque, festival lettori forti, ma anche soltanto dei semplici curiosi, lettori deboli, ma insomma che vogliono capire cosa succede, vogliono conoscere gli scrittori. Allora, Alessandra Tedesco è andata in mezzo alla gente. Alessandra, tu le code non te le fai per il biglietto, perché sei una giornalista, però insomma sei andata invece ad intervistare la gente in coda per capire un po' perché vengono ai festival, in particolare a Mantova. Sentiamo. Mi interessa del Festival di Mantova la pluralità di idee che si sentono e che non è spesso facile sentire sui mass media normalmente. Che cosa le piace del festival? Beh, intanto la vitalità e l'energia, poi la dolcezza del luogo e l'interesse di tutto quello che presentano. È veramente fantastico. Un avvenimento molto piacevole, è una cosa importante che dà lustro alla città e anche economia, credo. Lei è per la prima volta al Festival di Mantova, come mai ha deciso di venire qui? Ho visto sul Corriere della Sera un articolo dedicato a Jim El Khalili, che presenta oggi pomeriggio un suo libro sul rapporto fra scienza e Islam. Siccome mi interessa in particolare questo tema, sono venuta per questo. Che cosa le piace in genere di questo festival? Ah, mi piace il fatto di poter incontrare tanti scrittori che ho letto, e quindi magari così verificare mentre loro parlano se quello che ho pensato io leggendo i loro libri può, insomma, ritrovo un riscontro che mi interessa e che quindi mi fa continuare a leggerli. E poi soprattutto conoscere anche scrittori nuovi, soprattutto donne, perché devo dire sono di parte, quindi scelgo principalmente le donne che magari non conosco, di cui ho sentito parlare, vado ad ascoltarle e poi magari decido se cominciare a leggerle oppure no. Quindi lei è disposta a pagare anche un piccolo biglietto, qualche euro, per assistere agli incontri? Assolutamente, anche perché sono cifre irrisorie, poi è tutta la città che si prende cura degli scrittori, è bello questo, diciamo. È davvero carina questa signora. Alessandra, pagano il biglietto, vengono lì, immagino che andranno anche in albergo, mangeranno nei ristoranti. Questi festival portano dei soldi alla città che li ospita? In questo caso il Festival Letteratura fa guadagnare la città di Mantova, o in realtà è una perdita? No, no, assolutamente, sono un volano proprio per l'economia locale, perché come dicevi tu attraggono naturalmente persone che poi vanno in albergo, ristorante e magari conoscono la città e decidono magari di tornarci anche in un'altra occasione. Tutti questi festival hanno una sorta di forniscono un moltiplicatore per quanto riguarda l'economia locale e Mantova di questo ne ha sicuramente beneficiato in questi 17 anni, perché ricordiamo questa è la 17ª edizione del Festival Letteratura. Alessandra, vogliamo sentire anche cosa ne pensano gli scrittori di questi festival? Eh sì, perché come dicevamo ci sono sia i VIP che quelli meno conosciuti. Allora, come scrittrice importante ho sentito Beatrice Masini, forse questo nome non vi dirà molto, ma è una scrittrice famosissima per i ragazzi ed è la traduttrice di Harry Potter. Quest'anno tra l'altro lei con il suo libro per adulti, chiamiamolo così, è finalista al Campiello, di cui invece parleremo sabato sera proprio con una diretta da Venezia alle 21. Sentiamo allora che cosa ci trova lei nel Festival di Mantova. Dipende tanto dal tipo di platea, però di solito ai festival vengono molto spesso dei forti lettori, quindi sono persone che se non hanno già letto il tuo libro conoscono quello che fai e che magari non pubblicamente, però dopo, soprattutto dopo, si fermano e ti fanno qualche domanda, vogliono sapere qualcosa di preciso. E allora in quell'occasione si crea un momento un pochino speciale davvero e tutto sommato impagabile, perché è lì che vedi che cosa succede veramente quando tu hai scritto una storia e che tipo di reazione torna indietro. Allora, noi ringraziamo Alessandra Tedesco perché da Mantova davvero oggi ci ha fatto respirare una bella aria, una bella atmosfera. Alessandra, buon lavoro e anche buon divertimento, perché tu ti diverti. Grazie. Anche, io, insomma, diciamocelo. Molto, ma direi soprattutto buona lettura a tutti, visto che grazie. Poi alla fine il fine ultimo è quello di leggere i libri. Assolutamente, grazie dunque ad Alessandra Tedesco da Mantova, grazie a Roberto Scaltritti in regia, un saluto da Maria Piera Ceci.